amico c'è, ti chiamerà per star con te, perché per lui sei il più forte. Un altro amico c'è, ti insegnerà le regole per cominciare un nuovo gioco. Ce n'è per tutti i gusti, sono i tipi più giusti. Gli amici per la pelle ridono a crepapelle, si fanno un po' di boccacce, ma poi fanno la pace. Batti la mano con me per 5 volte così. Ora sei amico anche tu, non lo scordare mai più. Sotto il sole che ci scalderà, con la pioggia che ci bagnerà, con la neve che ci coprirà, nel cerchio degli amici c'è posto anche per te. C'è, è un po' più...